es un Radio Wombat. Está Radio Wombat. Radio Wombat. Otto Hertz. Grandi, benvenuti a un'ennesima puntata di 8 Hertz. Visto che c'è questa cacchio di afa, fa caldo, fa caldissimo, io non ne posso già più, è appena iniziata l'estate da un giorno. La puntata sarà un po' su un sogno di un'estate, insomma, che mi piacerebbe trascorrere, ecco. E po non poteva iniziare meglio che con i Fairos, con Sometimes. Qualche skaters che ci sta ascoltando potrà rimanere orgoglioso del pezzo che ho messo, perché era un po' colonna sonora della vecchia generazione di skaters degli anni 80, primi 90. In effetti il gruppo ha agito in quel periodo lì. Alla batteria e al basso c'erano i membri dei Minutemen, ovvero Mike Watt al basso, che ormai è famosissimo perché ha suonato negli Stooges, e George Hartley alla batteria, coadiuvati con Ed Crawford alla chitarra e alla voce, che fu la persona che, quando morì il vecchio chitarrista dei Minutemen, riuscì a far continuare Mike Watt a suonare. il basso. E ho trovato carino attaccarci un gruppo che è molto meno conosciuto e si chiamano gli Experimental Dental School, che vedi tanti anni fa a Firenze suonare dal vivo, mi piacquero tanto. Ci sono delle cose simili a ai Fairos, erano un trio ma poi diventarono un duo, e questa è Earthquake, tratta da Forest Fill, che è il loro ultimo disco, che era del 2009. Buon ascolto. Experimental Dental School, per ora siamo sulla fase di una estate un po' briosa, ecco, ma molto interessante. Ora vi vorrei fare ascoltare un gruppo che è italiano, non totalmente, perché la cantante, che credo sia anche un po' l'elemento fondamentale del gruppo, è americano-brasiliana, e gli altri invece spaziano tra Torino e il Sud Italia, non mi ricordo se è la Sicilia o la Calabria o la Puglia, non mi ricordo, perdonatemi perdonatemi. E loro si chiamano gli Honey Bird and the Beardies. Anche loro ebbi il piacere di vederli anni fa dal vivo e mi stupirono per un modo di suonare veramente personale e funzionava alla grande. Il pezzo che vi metto si chiama East Village da You Should Reproduce del 2012, che è il secondo disco e credo l'ultimo per ora che hanno fatto. E mixano un po' sonorità tra appunto il brasiliano, anche l'hip hop, come si può ascoltare un pochino, l'indie rock, la psichedelia tropicale, insomma, è un progetto veramente particolare. Quindi Honey Bird and the Birders Est Village. Misha Potkey, have you ever been to the East Village? Hey, Misha Potkey, stick up on a tree. Got some of the bagels, they cook it up and y'all don't have to be a Chinese. You need your mind, some of the soup is getting really, really cold. Crack up on your mind, you're making me feel clem. Oy, Viz Mir, oy, boy, boy, to the village you go, to the village you go, to the village I go. To the village you go, to the village you go, to the village I go. To the village you go, to the village you go, to the village I go, to the village I go, to the village I go, to the village I go, to the village I go. Gay Kackendorfen, yam! Oh. E grandi Honey Bird and the Birders, mi piacciono tanto, cioè, non so come mai, però piglia bene. E, volevo tornare indietro e continuare a parlarvi di quello che succedeva in America, nei dintorni appunto di San Pedro, California, sempre con i soliti personaggioni, Mike Watt e compagnia varia. Infatti, il brano che vi sto per mettere è proprio di Mike Watt, da solista, che appunto abbiamo ascoltato prima nei Fire Rose. Fece un disco nel 95 che si chiama Bull Hog or Tugboat, in cui, quando si sciolsero i Fire Rose, appunto, ha voluto fare una sorta di album calderone con un sacco di amici e musicisti con i quali ha avuto a che fare. E quindi ci si trovano in mezzo Jay Mashist dei Dinosaur Junior, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Chris Novoselic e Dave Grohl dei Nirvana, in particolare del Grohl sono un sacco di pezzi. Stephen Perkins, il batterista dei Porno for Pyros e Jane's Addiction, Flea dei Red Hot, il cantante dei Pixies, qualcun altro dei Circle Jerks, Mark Lanegan degli Screaming Trees, addirittura anche Bernie Worrell dei Parliament e dei Funkadelics. Ce ne sono tantissimi, anche qualcuno dei Lemonheads e personaggi che hanno girato con i Beastie Boys e ci hanno registrato gli album. C'era anche Carla Bozulik, che è una cantautrice americana molto valida, che canta proprio questo pezzo che si chiama Draw Up From Pedro. Quindi ascoltatevelo mentre dovrei trovarlo, però non lo sto trovando. Aspettate, eccolo qua. Ok, ve lo metto subitissimo. But the 70s had him spaced up in Hollywood. Maybe then he could find a reason for his bass. Turned his Volkswagen a Spielwagon, Hong Kong Cafe New Year show. Drove up from Pedro, what drove? Tune stuffed the thing in the hole. Drove up from Pedro, he drove. begins. But from time to time he seems to find for inspiration he's got to dig. Back to them days when the germs played him in Joe Baza at that show. Drove up from Pedro, from Pedro, up from Pedro they drove. Ed ecco cosa succede quando Mike Watt incontra Carla Bozulik e fanno questi pezzi meravigliosi. E con quest'afa mi veniva in mente un pezzo di Tricky che non c'entra nulla con queste cose, che era molto importante negli anni 90 per il trip hop, fu uno dei fondatori, all'inizio suonava con i Massive Attack, e questo pezzo si chiama Ponderosa, dal suo primo disco, che forse è il più bello, Max Inquiry del 95. Ascoltatelo e ascoltatela come, anche come podcast. Ascoltatevela in podcast parecchio questa puntata, che vi tornerà comoda quando siete dalle 11 alle 4 del pomeriggio a non sapere cosa fare, impauriti dal caldo e dall'afa, e appunto mettete questa puntata e starete meglio, perché non vi sentirete soli nel vostro soffrire di questa stagionaccia. Non poteva mancare Per similianza di sonorità non potevano mancare i Porno for Pyros, il gruppo di Perry Farrell, che era il frontman qui ci sono le urla perché insomma piace tanto, l'uomo imbarazzante che è anche il fautore dell'Ollapalooza, era il frontman appunto, come dicevo, dei Jane's Addiction, che fece questo meraviglioso progetto che si chiamava Porno for Pyros, di cui, ahimè, sono usciti solo due dischi. E, il pezzo che vi mando ora è del secondo disco, che è Good God's Urge del 96. L'altro era dell'anno prima. Sono due dischi meravigliosi di questo quartetto, perché veramente c'è tanta musica nel Porno for Pyros, costituito da Stephen Perkins alla batteria, che era appunto il batterista dei Jane's Addiction, qui con soprattutto nel primo disco con dei set percussivi di batteria molto particolari, Peter Di Stefano alla chitarra e Martin Lenoble al basso. Sono fantastici, Porno for Pyros. Il secondo disco, questo qua, è più sul ricordarsi di essere surfisti in California negli anni 70, o almeno questo è quello che mi fa venire in mente. Porpoise Head, Porno for Pyros, è la prima traccia del disco. Stonatissima. Thank you. siamo in estate e Radio Wombat continua imperterrita da novembre praticamente, azione radio con una vasta gamma di programmi, tutti differenti, tutti bellissimi. Vi voglio ricordare che potete seguire appunto quello che succede alla radio sul Twitter di Radio Wombat, Wombat con la doppia V ovviamente, sul Facebook Radio Wombat Firenze, sul sito in cui mettiamo le news c'è tutta la programmazione dettagliatissima, e potete scriverci proposte o critiche o frasi entusiasmanti a postawombat@insiberia.net. Il sito ovviamente per ora lo conoscete, altrimenti non ci state ascoltando, ma un giorno sarà più che un sito Radio Wombat, per cui dateci la carica ben bene, anche se d'estate in realtà siamo scarichi perché fa un caldo tropicale, come narra un pezzo degli Assalti Frontali, che purtroppo stasera non metterò perché mi sono scordato di portare. Però posso mettere un'altra cosa che si chiama Gonja Sufi, questo tipo che si chiama Sumac X, di madre messicana e padre afroamericano, sia DJ che insomma è un outsider un po' della musica, ma che ha scovato in qualche modo la Warp, l'etichetta che ha prodotto bellissimi dischi elettronici del calibro di Aphex Twin, per dirvi un tipo a caso che a quanto pare gira voce che non sappia fare il suo mestiere, accidenti, cioè, bravi voi. E questo è tratto da A Sufi and a Killer del primo disco del 2010, si chiama Cobwebs, e ha un sacco di spunti. Lui è anche un maestro di yoga, tra l'altro, ha imparato a cantare senza microfono, anche come suoni per ottenerli senza bisogno di effetti. È comunque un manipolatore di prima categoria della musica, insomma, fa quello che gli pare, come potete ascoltare da questo pezzo. Gonja Sufi, buon ascolto. era questo piccolo frammento tratto dall'opera prima di Gonja Sufi. Attaccherei subito un altro personaggio che è un pezzo di storia del post-punk, che è David Thomas. David Thomas era il singer dei Perubu, appunto un gruppo americano, mi pare, di San Francisco, che ha fatto la storia proprio del post-punk. Nei suoi progetti solisti ha fatto anche un disco che si chiama David Thomas and Two Pale Boys, quindi e i due ragazzi pallidi che in estate ci sta sempre perché mi sento un po' come questi ragazzi pallidi che non riescono andare al mare, quantomeno nelle ore di abbronzatura, come farebbe quel gonfio del cantante dei Doors, che diciamocelo è un gonfio. E il disco si chiama Surf's Up, quindi insomma ci sta tutto con la puntata. Il brano si chiama Man in the Dark e ci sta tutto con la puntata. E anche questo è un bel trippone estivo, disperato, come è disperata questa trasmissione che ha a che fare con l'estate. Per cui, se vi sentite un po' così, fatevi la playlist, targate l'8 Hz, e magari vi piacerà. I wanna know where the weather is cold. I wanna go where it rains in your eyes. I wanna go where the hellish winds blow. I'm a weather dark. Time only shows I'm aware. web I hovered soon. Pass the time away. We pace through our ages, or stare from the depths of our own separate cages, aware of the dark. Questo pezzo malinconico di David Thomas, e adesso un pezzo di un mio gruppo preferito, che sono niente proprio di meno dei Ministri. Ma cosa c'entrano con l'estate i Ministri? C'entrano perché fecero un concerto acustico nel 94 a Shoreline Amphitheater a Mountain View in California, per un concerto che aveva organizzato Neil Young, che era un concerto benefit per i ragazzini con problemi vari, tra cui anche la sindrome di Down, come tra l'altro appunto aveva il figlio di Neil Young. E fecero questa due giorni, fecero due spettacoli in questi due giorni di festival. Mi piaceva farveli sentire in una versione proprio estiva. Tra l'altro ci sono i video su YouTube, appunto suonano nel pomeriggio in un piccolo palco, anche se era gremito di gente e ragazzini che erano presi bene, benissimo anzi. E questo pezzo si chiama Friend of the Devil, che in realtà è un brano dei Grateful Dead, perché in quel set fecero tanti pezzi, qui pochi loro, e fecero anche un inedito che si chiama Paisley, che è un pezzo bellissimo che doveva uscire su Filthy Pig, era proprio quel periodo là. Quindi Ministry, Friend of Devil, appunto brano dei Grateful Dead, super mega country, grandi Ministri. Song by the Grateful Dead, it's called Friend of the Devil. Thank you. till the morning came around. Still I'm fun, gonna take my time. The friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep. But the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished into air. Still out front, gonna take my time. The friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry away each lonely night. First one's named Sweet Emily and she's my heart's delight. Second one is prison bay and the sheriff's on my tail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Spend the night in Utah in a cave up in the hills. Trying to find the devil, but I doubt I ever will. Still out front, gonna take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep. Grandi ministri e sempre lo saranno, in particolare il vecchio zio Al, che è il fondatore. Oh, looks like we made it through that one. E ha continuato imperterrito anche fino a finire quasi nell'autoproduzione. Alright, we're gonna end this little thing here for us. And it's a really old one. It's the theme to a Midnight Cowboy. E c'era Tim Buckley, c'era perché è morto, che fece un album bellissimo, secondo me, che è forse tra quelli meno sperimentali da un certo punto di vista, ma come timbrica è tra i miei preferiti. Tim Buckley, appunto, è un pezzo di storia dell'hard rock. E appunto fece questo Happy Sad del 69, che era fatto tutto con un quartetto che era un basso acustico, congas, chitarra e vibrafono e marimba alle percussioni, oltre che a lui che appunto cantava in un modo unico. E quindi ce l'ascoltiamo perché secondo me ci sta con l'estate, un po' con i sogni, un po' con il calore che veramente ti è sempre troppo e ne vorresti meno e vorresti stare meglio d'estate e vorresti sognare un'acqua pulita. Tim Buckley, Strange Feeling, tratto da Happy Sad. Down in my heart. can't tell what it is, but it won't let go. It happens every time I give more. Song, and I think we're gonna find a way to lose the strange feeling all around. I feel you, darling, feel you, darling, when you're home. Talk your troubles to. Oh Lord, I know I wanna catch the morning train, Lord, to break it in. 94 invece uscì questo disco che si chiama Mad Season, che era fatto da un super gruppo del periodo grunge, come lo chiamo io, anche se è grunge, appunto formato da membri degli Alice in Chains, Screaming Trees, Pearl Jam, The Walkabouts. Era un disco unico, hard rock ma abbastanza lento, e il pezzo che vi propongo, cioè il gruppo era capitanato da Lane Stanley, la voce degli Alice in Chains che è venuta a mancare tanti anni fa in pessime condizioni, e questo è un duetto suo insieme a Mark Lanegan. È un pezzo estivo perché anche il testo cita che sono l'unico che si ricorda di quell'estate e il vento ha portato tutto via. Cosa che è successa a tutti, è successa a me, che addirittura in quegli anni suonavo in un gruppo black metal, per varie dinamiche è andato tutto a distruggersi. E insomma, l'estate porta anche a tante cose brutte, e ascoltatevi Mad Season. So much blood I'm starting to drown, runs from cold to colder, time to time the sky's coming down. Come on down. to God to bring my sunny day out. Era un pezzo da pelle d'oca, secondo me, e ci troviamo alla fine. E con quest'ultimo pezzo è un po' la doccia fredda che uno si merita dopo tutto questo caldo, tutta questa afa. E appunto è un pezzo di Throbbing Gristle che si chiama Hot in the Hills of Love, caldo nei tacchi dell'amore, tratto da 20 Jazz Funk Greats del 79, che era il terzo album, più o meno, perché poi la discografia dei Throbbing Gristle è dibattuta. Comunque Throbbing Gristle, super mega importanti nella storia della musica, fa autori di un certo tipo di industrial, o per i più sono il gruppo industrial, appunto Genesis P. Orridge, degli Psychic, che poi formò gli Psychic TV, Peter Christopherson, Dave Coyle, che prima appunto suonava i Throbbing Gristle, Chris and Cosey, che poi sono gli unici che continuano a fare robe di sperimentazione ambientale. E questa è Hot in the Hills of Love. Buona serata a tutti, usatela come playlist perché di giorno fa bene. Thank you. Radio Wombat ed eri su 8 Hz.